amore, non piangere per me, se questo mondo non ha sorrisi per me. Ringrazio il cielo di avermi dato già te, già te. Vedrai che un giorno cambierà, verrà un mattino ed a svegliarti verrò. Andremo via nella mia casa, io e te, io e te. Innamorati non sono poveri mai, amore mio, devi sperare con me, con me, con me. La mia casa, io e te, io e te.